l'ufficiale postale non aveva saputo dare spiegazione del ritardo. Ma Don Totò, volendo, la spiegazione era capace di darsela. Ce l'aveva chiara, davanti agli occhi, come se ci fosse stato di presenza, la scena dell'ufficiale postale che correva al circolo e, chiamando in sparte Ciccio Locascio, a mezza voce gli spiegava che così e così c'era questo telegramma che poteva mandare all'aria la ditta Barba Bianca. Tanto lo sapevano tutti in paese che in quel momento i magazzini della ditta erano più lisci di un uovo. E cosa ne pensava Don Ciccio? Non era il caso di preparargli questo bello sfondapiedi? Sopra la pasta mennulicchi, diceva il proverbio. E figurati Don Ciccio che da 3 anni, da quando lui gli aveva sfilato da sotto il naso l'affare della miniera trasatta, andava dicendo a porci e a cani che si sarebbe magari impegnato gli occhi pure di vedere la ditta Barba Bianca col culo per terra. Altro che mandorline sulla pasta! Nettare gli erano parse quelle parole. E chissà quando ci aveva guadagnato la spia cornuta. Abituata a navigare col mare sempre di prua, Don Totò stava pensando che questa volta però i cavalloni erano forti assai e che bisognava metterci tutta l'abilità possibile per riuscire a scapolarsela. Per intanto la speranza non era del tutto perduta. Prima dei dissi morti bisognava aspettare il ritorno di Blasco Moriones, il ragioniere, spedito a cavallo appena ricevuto il telegramma a Fela, dove c'erano i fratelli Munda. Loro era difficile che gli dicessero di no. I fratelli Munda sapevano che a loro non conveniva fare torto a Don Salvatore Barbabianca. Moriones sarebbe tornato in paese sul primo dopo pranzo. «Rompete il collo, ma alle 3 qui devi essere», gli aveva gridato. Senza preavviso, lesto come uno di quei cani che mute mute t'addentano la gola, un pensiero l'arpionò. E se i fratelli Munda hanno un'alzata d'ingegno? Don Angelino, per carità, forse sia novantino, E magari ciecato da tutti e 2 gli occhi, ma tu serbo sei, Nino. E sul terrazzo mi deve portare, che da lì si vede il mare. Ma che volete vedere? Con questo sole vi piglia un colpo. Cazzi miei! Don Angelino Villa Sevaglios ora se ne stava a sudare sotto il sole, ma non si spostava di un millimetro, non si muoveva manco sulla poltrona di Vimini, impalato, una statua era, vestito da tutto punto, magari le ghette, che del resto si levava ogni morta di papa, le nudole stringinaso che gli pendeva sul gilecco e guardava il mare con la mano a pampera sugli occhi per evitare il reverbero, come se ci vedeva per davvero, facendosi ancora più lungo il collo di tartaruga. E Nino gli stava con santa pazienza al lato, tenendo in mano un cannocchiale di marina e cercando in qualche modo col suo corpo di fargli ombra a questo vecchio pazzo. Qua finisce che ci arrostiamo tutte e 2. Ma il vecchio manco lo sentiva mormoriare. Forse per la prima volta da quando la cataratta gli aveva portato via la luce si lamentava della sua disgrazia. Il Signore non me lo doveva fare questo torto, levarmi gli occhi, ora che la vista mi serviva per pigliarmi questa grande soddisfazione. E tirava su col naso a sentire aria de mare. Nino, se vede il fumo.